Senti, cosa volevi fare da bambino e perché? Allora, io vedevo sempre tutti i sabati sera il telefilm con Tom Selleck e Magnum P.I. e sognavo di comprarmi quel meraviglioso Ferrari. Cioè, proprio il suo. No, Che vabbè, modello una era? Che macchina. modello Era un era? 328 GTS, Che era perché c'era quello. il GTS con lo scapottato, il GTB quello con la capote. Lui era Il suo scapottato, no? Perché ci era saltava scapottato, dentro. perché alle Hawaii non si può avere la Ovvio, capota sopra, certo. meraviglioso. E l'hai comprato? No, per ora no, però non ho Ah. mai smesso di sperare che si possa arrivare un giorno a un risultato del genere. Non Beh, mi fermo davanti alle ma anche perché difficoltà, però. Giordano, così a naso, secondo me quel modello lì oggi non è che proprio lo porti via con tutti sti soldi, eh. No, infatti, c'è una persona vicino a casa mia che ha un Che ce l'ha? modello leggermente dopo di quello, qualche anno dopo. Sì? Effettivamente costa, non dico una bazzecola, perché non è che un Sai Ferrari costi una quanto? Qu bazzecola. quanto costerà? 10.000 euro? 15? No, no, no, sui 20.000 euro mi Ah. sembra. Ora non ricordo il modello, però mi sembra che costi sui 20-25 Lavoro mila fai, euro. Giordano? Io faccio, diciamo, lavoro per un'azienda importante a livello mondiale E che allora, nel metti. settore del caffè. Benissimo, Quindi metti da non posso parte sti fare tre nomi, soldi. però insomma. Va bene, metti da parte sti tre soldi e la Ferrari di Magnum è tua. Grazie mille, Giordano. Ciao, buona Serata a giornata. tutti. Andiamo a Matera da Nino. Ciao. Ciao Nino, tutto a posto? Sì, tu? Beh, no, bravo, siete prontissimi oggi. Senti, cosa volevi fare da piccolo? Volevo fare l'astronomo. Ah. L'astronomo, sì. E cosa fai? E faccio il dipendente delle poste allo sportello. Ok, però hai un cannocchiale, hai un. È una cosa che sogno di comprare da qualche mese e sto mettendo i soldi da Oh, bravo, quanto costa un parte. cannocchiale? No, ma poi non è il cannocchiale quello per guardare le stelle, Un no? Un telescopio, un piccolo telescopio, bravo, bravo. telescopio da tenere sul terrazzo in Visto che si parla di casa. soldi, con quanto viene via un telescopio? Ma non lo so, tra 500 e 1000 euro. Ah, ok. Lavori alle Sì, poste dove, sentite. scusami? A Matera, Nino? Nella provincia. Nella provincia. In provincia, sì, ogni giorno viaggio, faccio Ma soprattutto ogni giorno c'hai passeggiate davanti in campagna. decine di persone che un po' aggressive di solito. No, no, no, no, No? anzi, si impara a gestirle. Nino, grazie mille e buona giornata. Possiamo prendere l'ultima al Grazie. volo? Ci sta, al volo, al volo. Fabrizio da Pistoia, pronto? Pronto, ciao. Ciao Fabrizio, guarda, veramente Laura mi dice di stringere, quindi stringerò. Grazie, sì. Dimmi solo che cosa volevi fare da bambino. A 5 anni ho deciso che volevo fare il veterinario perché mi piacevano tutti gli animali. E adesso fai? Il veterinario. Oh, grazie Fabrizio, buona giornata!